E una buonasera da parte di Max Macchia, come dico spesso insomma da queste parti, buonasera, buon pomeriggio, buona mattina, dipende da quando ascoltate 451 frammenti sonori, appunto perché lo potete fare anche attraverso il blog 451frammentisonori.noblogs.org. E abbiamo riniziato da dove abbiamo finito la scorsa volta con Improvisationen, detta proprio la tedesca, anche perché ha proprio un senso tutta la faccenda dalla scorsa a Natale, quando vi darò insomma gli auguri di Santo Natale a tutti quanti, e la faccenda appunto legata all'improvvisazione, meglio detto prima improvvisazione, ovvero quel diramazione, forse un po' troppo grossa come faccenda per chiamarla appunto diramazione, forse una via aperta rispetto alle musiche che hanno aperte veramente tante di via, appunto quelle della composizione improvvisativa che abbiamo appunto ascoltato con Gruppo di Nuova Consonanza, con Musica Elettronica Viva e con AMM, e per poi passare a quello che abbiamo accennato la scorsa volta, già lo faremo un po' meglio questa sera, quello che è l'elettroacustica improvvisativa, la composizione istantanea presa da da freak, da visionari, da folli, da drogati e quant'altro, insomma amanti dell'elettronica, figli dell'avanguardia, e stasera tra l'altro avremo anche un padre dell'avanguardia, ovvero cosa è successo poi in terra germanica rispetto appunto alle musiche improvvisative. Lo scorso esempio era legato all'Italia, soprattutto visto che sia Gruppo di Nuova Consonanza che Musica Elettronica Viva lavoravano e lottavano in Italia. AMM con Ernest Guardian Company stavano in Inghilterra, ma comunque con vari contatti abbiamo anche cercato insomma in un certo qual modo di trovare degli incroci che ci sono stati, insomma collettivi che si aprivano e avevano questa dimensione appunto larga, sia in termini appunto di nuovo modo di intendere le musiche e sia come nuovo modo di intendere la politica, la socialità, il gesto artistico, se non appunto il linguaggio in toto. E la diramazione, o meglio insomma la via aperta, fu presa anche dai primissimi Kraftwerk, che abbiamo ascoltati la scorsa volta con Zero, Bootleg, che giocando sul primo e secondo disco, chiamati appunto 1 e 2, e trova una Kraftwerk all'inizio, quando c'era una parte dei Noi, e lavorava appunto sull'elettroacustica, soprattutto di tipo improvvisativo. In effetti abbiamo sentito proprio un'improvvisazione, come d'altronde poi Improvvisazione era proprio un disco della Deutsche Grammophon di Gruppo di Nuova Consonanza, che arrivarono appunto a stampare per la storicissima e celeberrima etichetta, forse la più importante della musica classica contemporanea, ecco. E troveremo tra l'altro questa sera un tedesco di Germania, veramente più tedesco di lui, forse anche con quella sia traccia mitica che accompagna uno dei musicisti più noti anche in termini di nome. Anche chi non conosce l'avanguardia conosce Karlheinz Stockhausen, anche proprio a mo' di battuta, a mo' di così immaginario, molto così popolare di quello che può essere musica inascoltabile o di cose insomma strane, assurde, tra l'altro citato anche da un momento esilarante da Alberto Sordi in un film eccezionale, dove eccezionale proprio nel presentare l'arte contemporanea come come cosa assolutamente aliena, stramba, insomma incapibile, inconcepibile, e quindi anche Stockhausen dentro uno dei famosi episodi, lascio a voi poi modo di cercare, se non l'avete visto, insomma, ricercatelo, è veramente esilarante, sia la faccenda legata all'arte povera quando vanno alla Biennale di Venezia Alberto Sordi e consorte, e anche quando appunto si mettono a russare, qualcheduno interpreta come composizione di Stockhausen, proprio perché insomma vicini alla Biennale, quindi probabilmente insomma come dire, suggestionati da quello che poteva essere un ascolto a volume anche piuttosto elevato nei giardini durante una sorta di dopo cena, allora fu scambiato nel film, in questo episodio, così russecchiare o russare insomma anche animalesco di Alberto Sordi e appunto consorte per la composizione di Karlheinz Stockhausen, tanto per citare insomma un piccolo caso anche di come poi l'avanguardia sia entrata anche in maniera un po' così ridicola, ma non per questo per forza spregiativo, dentro la cultura popolare, cosa che in effetti poi ci fa riflettere anche sui nostri giorni, insomma, su come dire, l'infelicità appunto rispetto alle avanguardie che non ci sono, ci sono comunque tanti episodi, tanti momenti, tanti lavori anche sperimentali, quelli sì, da queste parti, 451 frammenti sonori si occupa proprio di queste musiche, ovviamente avendo un riferimento, forse non si può neanche più parlare di temporalità, di atemporalità di musiche che hanno dato e continuano a dare in questo senso, quindi rimangono punti fermi e ancora opere aperte che di fatto danno nuova linfa anche alle musiche dei nostri giorni. In effetti poi l'improvvisazione radicale e diciamo laterale a quella jazzistica che stiamo trattando queste puntate di 451 frammenti sonori, ci portano dentro le elettroniche, ci portano dentro un modo di intendere il rock molto aperto, dentro le cosmiche, e dentro le cosmiche poi si può rintracciare quello che poi sarà un percorso tecnoide, e quindi anche tutte le elettroniche più o meno insomma ritmate, e veramente musiche che hanno un profilo eccezionale in termini di carattura e di capacità appunto di filiare, di dare nuove possibilità, in questo senso veramente opere aperte. Abbiamo appunto ritrovato Electrictus, che era un po' la faccenda della tedesca italiana impro, perché Andrea Centazzo, friulano, intorno alla metà degli anni 70 inventava questo progetto Electrictus con Electronic Mind Waves, che ha chiuso lo scorso 451 frammenti sonori, dedicato appunto all'improvvisazione, e quindi di marca tedesca, perlomeno come poi appunto passaggio rispetto anche alle musiche cosmicheggianti o più o meno tali, e qua appunto Centazzo cercava e trovava anche una via assolutamente originale di trattare l'improvvisazione, anche quella appunto elettronica, esperto anche appunto di strumentazione di quel tipo, con un senso appunto aperto, free form potremmo dire, in molti pezzi, e poi appunto anche queste divagazioni potremmo dire prettamente cosmiche, ma un cosmo appunto che ha sicuramente quella natura improvvisativa e quindi di scrittura immediata, nata proprio appunto lì sul farsi e poi appunto il grande viaggio, anche qua il disegno utopico, insomma, di creare sorte di viaggi infiniti, sia musicali che appunto cosmicheggianti, e quindi visionari nel senso più largo del termine. Questa sera Improvisationen und, lo diciamo proprio alla tedesca, anche quello è Composition, e per questo insomma ci sarà anche il grande Karlheinz Stockhausen, che l'altra volta veniva preso come riferimento di una certa accademia, ma poi dopo faremo anche capire, anche perché appunto questa sera c'è dentro 451 frammenti sonori il grande Karlheinz Stockhausen. Reiniziamo, cioè quindi iniziamo per la seconda volta in realtà, perché l'abbiamo già fatto appunto con Electrictus, Electronic Mind Wave, e con Futuri Rumori, quindi mi spiazzo ulteriormente, o mi spiazzo forse per meglio dire, ulteriormente rispetto altre aperture di Futuri Rumori, anche a questo punto, perché apre appunto questa improvisazione und Composition con un progetto che forse prende anche per certi versi da quello che è una sorta di radicalità nel costruire attraverso non tanto l'objet trouvé alla maniera concreta, concretista anzi, ma quasi una scrittura, se vogliamo chiamarla così, una scrittura appunto compositiva da parte di questo progetto, del progetto italiano legato a Canti Magnetici, che lavora su materiali di scarto che possono farli avvicinare a certo noise che si è sviluppato soprattutto negli anni zero, ma soprattutto come faccenda legata a scritture legate a musiche cercate e poi anche trovate per buoni aspetti dentro suoni trattati che di musicale hanno ben poco, quindi riferendosi ad esempio al noise del primo periodo di Wolf Eyes, dove l'improvvisazione radicale vi porterà ad esempio anche proprio a collaborare con Anthony Braxton, tra appunto i musicisti più improvvisativi di sempre, proprio in termini di scrittura, maestro in questo senso, e anche di noise, di rumore. Video Basic hanno questa capacità appunto di prendere spunto da quello che è un riferimento anche noise più largo, quindi anche con un immaginario che va a cadere dentro sì il suono concreto, ma in più appunto questo noise che si sviluppa, questo concretismo attraverso un'attitudine che appunto è improvvisativa. Per Futuri Rumori appunto video Basic, questo progetto legato a questa bellissima realtà che è appunto Canti Magnetici, che stiamo trattando un po' in chiusura di quest'anno di 451 frammenti sonori, anno ovviamente solare per il momento. Michele Mazzani, che è un po' il deus ex machina di questo progetto, e comunque vede anche altre collaborazioni come Gabriele Gottini, e non abbiamo sinceramente capito quanto, ma di fatto ci dovrebbe essere anche insomma lo zampino di Matteo Poggi. Comunque siano le cose, insomma, Michele Mazzani rimane un po' appunto, come dicevo prima, deus ex machina di questo bel progetto. In cassetta produce questo autoproduce, anzi per meglio dire, questa musica che si ciba di suono ritrovato, di suono di scarto, una sorta appunto di grande calderone e sonoro che viene appunto bevuto e appunto anche digerito, ridigerito in una maniera assai anche visionaria rispetto a quello che può essere appunto un suono più ottundente, e che non mancano in alcuni momenti appunto di Untitled, di Video Basic, ma che ha spesso appunto anche attraverso un'attitudine che potremmo chiamare noise improvvisativa, quel carattere appunto anche più astratto. E ci andiamo appunto ad ascoltare questo bel lavoro appunto per futuri rumori, come al solito, insomma, contenti di poter inserire lavori di questa qualità. Video Basic. video basic da parte appunto di sia per quanto riguarda l'edizione, la possibilità insomma di poter ascoltare appunto tramite cassetta, quindi c'è anche questa scelta editoriale. Ma comunque di fatto di poter anche accedere tramite altri canali, ovviamente Bandcamp in primo luogo, nell'ascolto di musiche fatte in Italia con una testa ovviamente che non è semplicemente italiana, ma appunto prevede sia in termini proprio di voglia di sperimentare musiche che vengono, prima citavo noise americane, in primis Wolf Eyes, per quella voglia appunto anche di sperimentare attraverso l'improvvisazione, o perlomeno l'attitudine improvvisativa. Poi anche in questo caso, e questa sera un po' anche dedicato a questa faccenda, la trasmissione 451 frammenti sonori, cioè il poi aver dato possibilità di scrittura, di composizione e altra, appunto l'improvvisazione radicale, fino ad arrivare anche a un atteggiamento post-produttivo che sembrerebbe un controsenso, no? Cioè, è una musica che si fa in divenire, ma si può fare anche in divenire e partendo da cose già fatte, quindi improvvisare su materiali già prodotti o su suoni che sono già stati fatti, e in questo senso insomma quindi si sviluppa anche quella grande dialettica con il noise, ma anche con appunto certe forme di techno più selvaggia, perlomeno non tanto in termini di violenza sonora, ma in termini appunto di costruzione, quindi con quel senso anche appunto di improvvisazione su materiali magari non propri, perché no, anche in questo senso il campionamento, o appunto come in video basic invece il lavoro su materiale scaduto, scadente in termini sonori, che però appunto prende nuova vita, viene sia ricomposto che anche poi rivitalizzato, sembra quasi un'operazione quasi di ecologia sonora, se non fosse insomma anche per un immaginario piuttosto tetro, piuttosto distopico, anche dentro il progetto di Michele Mazzani, ma con anche appunto quel senso di visionarietà e anche appunto di viaggio, seppur è un cosmo quasi rotto quello appunto di Video Basic, ma lo abbiamo trovato in Electrictus, l'abbiamo trovato nelle prime improvvisazioni di Kraftwerk, e lo ritroviamo ad esempio in un gioiello misconosciuto o comunque di culto per pochi, ovvero i dischi di Cluster. Quindi anche qua il cosmo, prima che diventasse un grande viaggio, uno dei viaggi più affascinanti delle musiche del dopoguerra, era sperimentazione, e poi per molti versi sarà anche continuata quella sperimentazione, però magari ecco con un suono che ovviamente ci porta più appunto a divagare, se non addirittura proprio a vagare tra le stelle appunto e il cosmo. Qua siamo in una quasi una forma di elevazione che viene da composizione improvvisata e improvvisativa di questi tre geni tedeschi che riuscivano a fare delle musiche eccezionali, partendo anch'essi da materiali molto, molto basici, come appunto prima abbiamo sentito in Futuri Rumori Video Basic, Rodelius, Moebius, Schnitzler, poi tra l'altro i primi due, Rodelius e Moebius, ebbero anche una certa fortuna come Cluster, con la C e basta, stasera stiamo trattando i Cluster con la K, che fecero tre dischi, ripeto, eccezionali per quanto riguarda la genialità, proprio nel vero senso della parola, creare delle musiche e da dare forma a una sorta di caos per poi e riformulare appunto in un certo qual modo lo stesso caos e dargli appunto un'altra valenza, un altro aspetto che appunto è decisamente sonoro, appunto, se non addirittura compositivo nel senso più largo del termine. Se pensiamo che prima citavo l'arte povera per un'altra storia, insomma, di come l'avanguardia e poi la neoavanguardia sia entrata anche dentro l'immaginario popolare. Schnitzler è stato allievo di Joseph Beuys, quindi uno dei grandi creatori dell'arte povera, dell'arte concettuale, dell'arte che diventa linguaggio sotto tanti aspetti, se non altro anche quello politico, appunto quello del creare collettivamente, avendo appunto una mente sempre spostata verso quello che è appunto l'immaginario, che in un primo momento è terrestre, collettivo, e poi diventerà addirittura il grande sogno di una generazione, quella appunto tedesca degli anni 70, che influenzerà insomma vari nel mondo, e ancora lo fa con uno probabilmente dei più fervidi immaginari del dopoguerra. Tra l'altro qua si potrebbero aprire veramente tanti riferimenti anche proprio a quelle sorte di architetture legate alle neoavanguardie, immaginifiche che potete trovare in certe forme di archizoom, quindi quella architettura che diventava utopica, diventava un altro, tanto appunto per trovare un altro parallelismo, come citavo prima, appunto Schnitzler fu allievo di Joseph Beuys, e tra l'altro sia Moebius che Rodelius venivano insomma dalla grande scuola elettronica tedesca, che di fatto insomma insieme a quella italiana di Luciano Berio, di Nono, informò, come dire, quella americana ovviamente, di Cage & Company, informò tutte le nuove generazioni, anche le leve che si posero appunto in maniera diversa, ulteriormente alternativa, se non addirittura antagonista, rispetto agli stessi padri, che troveremo tra l'altro dopo appunto in dimensione insomma sintetica in Carlisle Stonehouse, dentro appunto questo 451 Improvisationen und Composition, Cluster da provo a dirlo abbastanza tremendo, Klopf Zeichen, dovrebbe essere più o meno questa la pronuncia esatta. Ci andiamo appunto a tuffare in questo magma sonoro di eccezionale creatività, appunto veramente musiche improvvisative anche nel termine, proprio nel senso appunto di creazione lì sul momento, attraverso materiali che sembrerebbero assolutamente non musicali o addirittura antimusicali. Unser Verständnis heißt einfach Verständnis heißt unser Wille heißt nicht Wille unser zur Wille Macht heißt nicht Wille unser zur Fall Macht ist ein unser Ernstfall ist ein Ernstfall unser Mut heißt unsere Kraft heißt zum unser Mut heißt unsere Kraft zum unsere Bildung heißt Vermögensbildung heißt unsere Bildung heißt unser Bewusstsein heißt unsere Verbraucherbewusstsein unser Bewusstsein heißt unsere Moral heißt Arbeitsmoral unsere Moral heißt Arbeitsmoral unsere Moral heißt unser Bedürfnis unser Verständnis heißt unser Einverständnis heißt unser Verständnis unser Wille heißt unser Verständnis heißt unser Wille heißt nicht Wille zur Macht unser Wille heißt unser Wille zur Macht ist ein Ernstfall unser Fall ist ein Ernstfall. Thank you. beide Augen zu, denn ich werde geführt. Ich stelle mich taub, denn ich traue meinen Ohren nicht. Ich rieche keine Lunte, denn ich habe die Nase voll. Ich gebe meine Stimme ab, ich habe sie nie gebraucht. Ich bekenne mich schuldig der Konspiration mit meinem Gewissen. Ich bekenne mich schuldig des Verstoßes gegen die öffentliche Unordnung. Ich bekenne mich schuldig der Begünstigung des Fortschritts. Ich bekenne mich schuldig der Verführung Abhängiger zum Denken. Ich bekenne mich schuldig des Attentats auf die Gleichgültigkeit. Ich bekenne mich schuldig der Beihilfe zum Mord geheiligter Tabus. Ich bekenne mich schuldig des Aufrufs gegen die Ungerechtigkeit. Ich bekenne mich schuldig der Anstiftung zum Frieden. Ich bekenne mich schuldig des Fluchtversuchs aus dem Mittelalter. Und beladen mit Gebrechen des Aberglaubens kriechen wir zu Kreuze durch Asche von Scheiterhaufen, stehen auf und wandeln an den Krücken der Geduld mit geschändeter Stirn zurück in die Siechenheime. Mühselig und beladen mit Unrat und Untat schlagen wir uns durch die Dschungel der Märkte, die uns rauben den Schlaf und einschläfern unsere Wachsamkeit, während die Freiheit versteigert wird. Mühselig und beladen mit der Bürde der Menschenwürde marschieren wir im Stechschritt über Schlacht und Friedhöfe hinein in die Warteseele, wo die Unruhe tickt. Aber die Uhren geben keine Auskunft mehr. der Frieden vertagt, die Mitschuld verjährt, die Karenzzeit verewigt, das Unvermögen hat sich verzinst, der Wechsel ist fällig. Nachrichten aus. Der Unterhändler weigert sich, den Krieg zu erklären. Nicht krümmt sich der Finger am Abzug des Gewehrs. Die zornige Hand findet das Messer nicht. Zu explodieren verlernen die Bomben. Die Generale haben sich zum Golfspielen entschlossen. Das verleumderische Wort bleibt hinter die Lippen gepresst. Diktatoren öffnen die Straflager. Andersdenkende werden geachtet. Die Rasse ist nichts als ein Unterschied in der Farbe der Haut. In den Folterkammern wird Brot gebacken. Galgen und Henkerbeil ziehen sich zurück ins Museum. Gespräche über den Frieden haben Aussicht auf Erfolg. Die Grenzen werden geöffnet. Versuche, den Streit zu schlichten, gibt man nicht auf. Man fängt an, die Wahrheit zu sagen. Man lässt den Gegner zu Wort kommen. Man schließt Kompromisse. Man lächelt über sich. Man fängt an. holt den Sohn vom Bahnhof ab. Er kommt. Man weiß nicht genau mit welchem Zug, aber die Ankunft ist gemeldet. Es wäre gut, wenn jemand dort auf und ab ginge, sonst verpasst